disperatamente sola. Tonica delle bambole, puoi sorridere, ma non puoi, perché di tutti e di nessuno sei il grande amore. Non ce l'hai, la vita passa e tu non cambi mai. Monica delle bambole, puoi sorridere, ma non puoi, perché di tutti e di nessuno. Grande amore non ce l'hai, la vita passa.